c'è qualcuno? Chi è? Io sono, ma scappato te ne sei? Eh? Gianni, e beh. Ah già, buonasera, Gian Maria sono. Ah, Luca, senti. Luca del Monte, sì, adesso. Luca, avanti, buonasera. Sono qua, Gian Maria, mi senti? Ciao, buonasera. Atti 7, atti 7. Anche se sei sotto il letto, gli atti 7. No, già, ma sono venuto in soggiorno, dai. Perché troppo vado via e sono qua, in soggiorno. E tu abbiamo, senti? Benissimo. Adesso sono davanti, allo Crevice. Adesso mi devo arrivare bene. Sono già in facciata, vicino al terrazzino. Luca, ripresa. No, già mi ascolto tutti e due. Sono qua già, là. Adesso vado a organizzarmi con l'antenna, ma mi serve la K155, 5 metri per fare la bobina. E poi appena c'ho tutto vado a comprare le canne da pesca. Sicuro sei della misura, ma ti conviene mettere direttamente invece che canne da pesca i PVC, i tubi PVC, quelli elettrici, quelli che vendono da Brico, ne inserisci uno dentro l'altro e fatto io. E mi sa che farò così, adesso vediamo cosa dice Luca. Perché le canne da pesca si vetrificano, capite? Quello è il problema, vanno bene, però poi si vetrificano con l'andare del tempo. E adesso vediamo, domani mattina non ce la faccio a farmi un salto lì da... come si chiama? Da Fusaro per vedere se ce l'ha. Adesso lo metto 58, non me ne frega niente, va bene lo stesso. Ah, molta gente l'ha fatto con 58. E va, vedi, muda. Io mi hai trovato un messaggio, trovato su WhatsApp. Ma l'hai trovato il modo di farla, l'antenna? L'ho capito già. Ho detto, l'hai trovato come si fa, con le spiegazioni, come si fa l'antenna? Già me la costruisce Luca. E cosa vivo? Già lo fa lui, io non la so fare, ma se mi metto passo per passo, magari riesco a farla. Cioè, non sono impedito, no? Kappa. Se te la fa Luca mi ha fatto altro, quindi la lascia fare, poi c'è anche lo strumento, lui per misurare, misurare. Ma infatti la faccio costruire da lui. Gio Maria, è parito, E quella dove la metti? Quale? Qua da Marina. Non ne voglio roba pesante già. Se domani non dovesse cadere una cosa leggera già cade sul tetto. Ah, infatti, quello è un po' come sicuro. E poi fregate meno, come se niente fosse, dai. Sto mettendo una cosa che non mi crea problemi, non sto preoccupato e né niente. No, ma infatti, non viene così. Io ho messo la mano per vedere se sono le cose che mi metto soltanto, la cosa che c'è la scia, che sta cazzo, è un pindaccio. Ma infatti già. Lo faccio con 58, già rende lo stesso, non rende come la caccia del 55, che se ne frega. Va bene lo stesso. Sì, ma allora la caccia del 55 serve per fare l'avvolgimento, mi. Lo so, ma non c'è più nessuno nel 27. Più fuggiti. Cosa? Non ne hanno voglia? Sicuramente. Cosa già? Non sai che te la fai lì? Aspettiamo, non lo so, non ne ha preso. Non devo organizzarmi la schiuma, quella, non so come si chiama, quella d'espanso. Polizia d'espanso, e quella lì, polizia d'espanso. Lì è per bloccarla giù, così per metterci in tirarci il tubo e bloccarla, poi ci lima e ci vernicia, così. Sì. L'unica è. Già sarà già Luca. Io l'ho vista fare. Sì, non c'è problema, già, tanto non è una cosa. Poi diciamo che se rimango un dipolo bullo tra la gabbissura, andavano matessimi. Poi lui c'è una cosa che non c'ha stazionaria con l'antenna. Puoi attaccare quanto ti piace, massimo 1,1 ti dà. È copiato. Sì. Fino a 8 ore, tutti quanti impignati su. Già, se non mi dà tempo di rispondere, stavo rispondendo a Luca su WhatsApp. Dimmi, cosa che hai detto? Ho detto Tore Marino, ho detto tutti impegnati su. Ah, boh, Tore Marino lo trovo più tardi, Tore entra alle 7:30, sta mezz'ora in radio, potevo entrare alle 8:20. Oh boh, andiamo bene, andiamo. Che è te? Ho capito. E vabbè, dai. Ti conviene andare con Luca, lo comprate insieme il materiale che lui sa cosa comprare. Sì, beh, certo, già. Perché, no, vabbè, ma è quella che c'è in garage, che una lanterna vecchia non va bene. Non va bene. Ma devi comprare alta anche, perché poi ci devi far passare il filo dentro e farlo uscire dalla punta, tagliarne un pezzo e farlo uscire da lì, capito? Vabbè già, ma se uno si esce da bile le luci. Non ce la fammi che faccio, cocro. Devo stare a dieta, devo farmi abbassare la glicemia, perché se mi devono operare, se ce l'ho alta non mi opero. Oggi mi hanno chiamato all'ospedale a portare tutti i documenti, tutte le lance, tutti i danni. Ho chiamato, ti sento a tratti, ho capito, ti ho chiamato all'ospedale per portarli le radiografie. Ah, e dovevo prendere degli appuntamenti lo stesso, però quel numero di Cagliari non mi dice che è inesistente, non risponde, boh. Vai, più 10:15. Dove andiamo, Cata? Luca, ci sei? Boh. Ma sono uscito già oggi? Sì, sono riuscito a portare il cane e poi stamattina sono andato all'ospedale, ho fatto il giro lì. Oh yeah, me l'ho chiamato tardi, ho dovuto mollare tutto, stavo cucinando, ho dovuto spegnere il gas, tutto quanto, l'ho dovuto portare d'urgenza. Ho capito. A Giugavitte. Io sono uscito che no. Appena ho chiuso con voi al baracchino. Mi sono vestito, sono andato a vedere con la macchina. Una macchina, una Fiesta 1400 DCI, come si dice, del 2006, voleva 1750, è sceso a 1650, però era un rom, uno zingaro era. Ma infatti io gli ho detto quanto c'è a disposizione, mi ha chiesto, ho detto 1000 euro, no, 1000 no, 1650, ok. Ma gli ho detto così, papà, pare scimmini da mezzo. Capito già, gli ho detto così, ma scimmini da mezzo. Ci sono attratti stasera, E cosa hai detto? Ho detto per spogliarlo. Infatti. Ma buon camminare la mezza di piedi. Allora, c'è una volta, la macchina era abbastanza perfetta, là. Il motore partiva dalla primo colpo, era un bombo. C'è chi lega, le gomme erano abbastanza buone, c'era qualche colpo, ma niente di che. Non si può aggiustare quella di Marino. Come? Sì, cosa c'è? Già c'è, dove c'è, non si può aggiustare. Vabbè, sono stato il problema comunque, non lo sta più facendo. Magari capita l'affare, mi. Poi trovi quella dell'anziano, allora c'è un tipo vicino a casa che ce l'ha uguale a quella di Marina, uguale, identica, spiccicata, colore, tutto, uguale, nuova di pacca, nuova, era pagata 3000 euro, nuova. E la mia io l'ho venuta a 200 euro, la Station Wagon. Ah vabbè, la Station Wagon non l'abbiamo mai comprata, che non mi piace la macchina così, a me, non mi piace, non mi è mai piaciuta la Station. Anche la 5 porte va bene. Io la preferisco più di più a 3 porte. Mi piace di più. Poi, se sapessi la comodità della macchina Station Wagon, te la prenderesti subito. Questa viaggiando a Cagliari, manca bizzato, non mi so. Col cane dietro, tutta la roba, ci sta tutto quanto. Non è mai pensato cosa di una utilitaria normale. Vabbè, chi piace. Chi piace già. A me non piace. È una questione di gusti, appunto. Ma c'era il periodo che si usavano di più le Station Wagon, come adesso si usano i SUV. Certo. Te lo so. Ma a me piace la Ford Fiesta, quel modello lì. Poi carina quella, sai che piace, mi piace? Sempre di quel colore, grigio, fumo di Londra. C'è chi lega e vetri scuri dietro. Beh, quella è bella, cavolo. sempre diesel, 1.400 diesel. Ma quello vuoi prendere per te oppure per vari? Oh, oh, vabbè, se capita l'affare già. Se caso, se capita l'affare, se no... non sto cercando macchina, no? Era il motivo a sta campanita. E già lavoricchio. Non so che lavoricchio. Cosa lavoricchio per la macchina? E io anche quello ho fatto, pure per la macchina. Ma tu c'avevi uno stipendio fisso ogni mese. C'avevi uno stipendio, diciamo. Se lo potevi permettere. E io cosa posso? Scusa. Ce l'ho tuttora, non c'avevo. Ce l'ho tuttora lo stipendio fisso. Però... vabbè, te lo so. Quello che è vero. E vabbè, dico, cioè tutto là sì, e beh. Lo so. Vabbè, niente, alla fine sei, diciamo, un'entrata ogni santo giorno, cioè ogni mese, ogni santo giorno, lo puoi anche fare. Furbetti del contattore, in 10 al produttore sarà lanciati abusivamente da Banoa. L'operazione dei carabinieri di produttore, famiglie insospettabili che per le motivazioni più disperate avevano deciso di allacciarsi abusivamente alle condotte dell'acqua pubblica gestite dalla società Manoa, non pagando così nemmeno un euro di bolletta. Non ti sento già. Adesso si pagano tutte in una volta. Più baetti. Sono anche quelli che si allacciano alla corrente degli altri. E beh, certo. Invece mi sono messo, ho già due pannelli solari e a Lena gli ho detto di prendersela nel questione. E ormai è un annetto che ce li ho. Bene, come devono andare? No, solo per la luce li ho messi. E certo. Sì, no, quello dell'acqua è molto ingombrante già, non so se, se le case popolari vogliono ammetterlo, boh, non ci avevo mai pensato sinceramente. Ho detto, quello dell'acqua calda, siccome è ingombrante comunque, è vistoso, e poi comunque devi essere sempre collegato con lo scaldabagno, capito? Perché se ci sono troppe giornate di nuvolo non ce la fa a scaldare... a scaldarti l'acqua poi, e ti dicono sempre di tenere lo scaldabagno collegato. E per che cosa? Per il solare. Sì, per questi pannelli. Tre pannelli che costano 70 euro l'uno, capito? Io ho messo quelli monocristallini che servono per immagazzinare energia anche durante le giornate di pioggia, capito? Ho speso una decina di euro in più, 80 euro rispetto agli altri modelli. E poi il totale è una batteria GM e il regolatore di carica. Boh, basta, non vi vuoi. Eia. Tutto l'appartamento mi ha fatto, capito? E ormai è già un annetto. Sicché per una ventina d'anni sono a posto, capito? Quando fra 20 anni o giù di lì cambierò i pannelli, non saranno quei 150 euro, no? E magari non ripa i miei però. Infatti. Vabbè. Bello, l'impianto fotovoltaico come sta andando? Benissimo, benissimo lui. Ho messo la batteria AGM, scarica lenta. Guarda, mai dato un problema, mai, mai, mai. Tempo 2 ore è già carica pure. Considerando che se ne scende solo neanche il 20%, capito? Neanche il 20% consumo giornalmente. E in sala, per dire, è accesa almeno da 4-5 ore, ci sono due lampadine a LED, ci sono 50 watt di lampadine, capito, a LED, e però non, anche a Natale. A Natale, per esempio, eravamo dalle 4 di pomeriggio alle 3 e mezzo del mattino con le luci accese. Me ne è autonomia già. E poi ti ho detto, sono quelle AGM, sono quelle start e stop delle macchine a scarica lenta, capito? Costano 140 euro l'una, capito? Da 100 ampere. Però sono le uniche, cioè sono le diciamo le migliori per questi impianti così. Però li ho recuperati e dimenticati pure quei soldi lì. Adesso è tutto gratis in pratica. Ah, l'ho visto, l'ho visto. E poi ci sono anche i farettini, volendo, se uno se li vuole mettere in casa a carica solare, capito? Li mette fuori, sul balcone, durante il giorno e la notte e la sera se ne li entra e si accendono da soli, capito? Hanno dalle 7 alle 8 ore di autonomia. Grazie. A voi con l'Enermi. Oh, yeah. troppo comodo è già, troppo comodo, non lo cambierei, guarda, mai, anzi lo rifarei altre 100 volte l'impianto solare. Beh, se no non l'avrei fatto, ti pare che mi metto tutto l'impianto solare sapendo, siccome ho un amico che ce l'ha già, sia nel camper che in casa, i consigli sono stati giusti, capito? Ecco perché l'ho fatto, se no non avevo fatto. Non solo, lui c'ha tutto l'esterno della... tutto l'esterno anche illuminato, i lampioni, telecamere, tutto dal solare, capito? Poca spesa, molta resa. Cosa? Io sono a tratti oggi. E cosa piglia? Un metro è il pannello, un metro per 60 ogni pannello. Hola. Non sento più a nessuno. Luca manicomio. Luca manicomio adesso ora delle visite già, sicché non può riprendere. Tutto frusciato ci sei. Ho detto che Luca adesso, Luca manicomio, ora delle visite, capito? Non può riprendere. Ah, ecco, ho capito. E vabbè, mi pare che tu lo pure devo portare il cane in giro, non ho nessuna fuga, ma lo devo portare, purtroppo. È un impegno, eh. È un impegno, anche quello. E no, Lu, lo sai cosa è? No, per me è sempre stato un piacere perché faccio la passeggiata e cos'è che adesso ho questo femore così, se non mi operano qua non riesco a camminare. Certo, dall'ultima volta che ti ho visto al centro diabetici, sempre così, sì. Sempre così. Tra l'altro la cosa si è, cioè, è diventata più grave dall'epoca. Si è aggravato, ha voglia di consumarsi, si aggrava, se non ti fanno la protesi è così. Adesso oggi mi hanno chiamato a portare le lastre, mi hanno detto che la prossima settimana mi dovrebbero chiamare per operarmi, poi bisogna vedere. Caspita, ormai ho già sì, 2 anni così. Un bel. Dici, allora, 6 mesi, un anno e mezzo così. Adesso hanno spostato il centro diabetici, mi tocca uscire a San Camillo. Che cosa? Mi tocca uscire a San Camillo a me adesso per il centro diabetici. Non c'è più lì. E allora? Purtroppo sì. E da quando questa cosa? Quest'anno. Da quando ho prenotato la visita, purtroppo mi hanno detto che hanno spostato a San Camillo. Anche perché la mia dottoressa se n'è andata in pensione, la Scardaccio, capito? Però mi hanno detto, adesso le nuove cose le deve andare a San Camillo. Vabbè. Ma non è per tutti così. Non credo già. Io ci ho appreso ciò. Bravo. L'ho avuto anch'io un periodo che non c'era la mia dottoressa. Veramente bravo, in gamba, sì. Quello non è spostato a San Camillo. Non lo so, boh. Devi chiedere quando prenoti la visita. Oh, io la visita ce l'ho già prenotata, io devo andare a febbraio. Perché anche dalla Stecca Bianca non stavano più facendo, li hanno spostati di fronte. Capito, non so se a te l'hanno dato sempre alla Stecca Bianca. Eia, sì, quello sì, quello va bene, l'hanno spostati, ma non penso che stiano sempre spostando, no, scatto. Magari sono alcuni dottori che sono andati a San Camillo, ma San Camillo è un bel lontano, e viene fuori male, io allora me ne vado a Palazzo Rose. Infatti. Che ci vuoi fare? Vabbè, mi assento un attimo già. Oh già! Io sono qua, adesso lo chiudo. Sto giocando a Super Mario, sto raccogliendo un po' di gettoni. Ancora con Super Mario, sì. Mi piace un bel come gioco, mi è sempre piaciuto. Super Mario Bros. Esatto, proprio quello. Ce l'avevo anche io nel Atari 2006. A tempo che costava laggiù. 80.000 lire o 90.000 lire, così costava. E ce l'avevo nell'Atari 2006, c'erano le monetine che scendevano, le pulci, era una cosa allucinante, deve fare un bel freddo. Infatti sono occupato di gettoni. Sì, mi ricordo anche come faceva. Secondo me sono i migliori i giochi, secondo me. Io non ne ho più, infatti sono già Gemberata c'ha molto braccio di ferro. Poi c'avevo Tarza che doveva saltare da una corda all'altra. Secondo come saltava cadeva giù. E poi alla fine doveva salvare una donna che era presa da dei guerrieri. E dovevi saltare i guerrieri e combattere. E era bellino anche quello. Sì, io lo so. Poi c'era le Olimpiadi. E io ne avevo fatto, c'avevo il tennis, c'avevo il calcio, c'avevo il gioco delle moto. Luca! Illu! Buonasera, ciao Gianni! Ascolta, una cosa. Nel televisore che c'ho in cucina è sparito il quadro. Però si vede, sotto si vede. Però rimane buioso. La voce si sente, però rimane buioso. Però la figura si vede, appena si vede. Quanti pollici è? 32. E di quelli a LED, mi? Sì, i LED sono bruciati, bisogna cambiare i LED. Quindi ne sai, BV? Se vai a comprarli nuovi, sì. Mi sa che costano intorno a una settantina di euro. 60 euro. Quindi... con mano d'opera e tutto vuoi 100 euro. Comprando i nuovi, sì. Se riesco a rimediarti io, già ti faccio risparmiare. Certo, 100 euro buoni buoni li spendi. Allora, guarda, un vicino di casa, il tecnico gliene ha cambiato tre saldati, tre LED, 90 euro gli ha preso. E gli è durato un buon paio di mesi. Io gli ho cambiato tutte le strisce, certo le strisce, la striscia che era bruciata, perché lavorano in parallelo, no? Sta sempre funzionando, non si è più lamentato, e gli ho preso 50 euro. Cambiandogli tutte le strisce. Chiete. Ma non che si è sudato tutto, si è sudato. Si vede sotto si vede il quadro. Non molto, ma si vede. Sotto in cina di Abbaidalla. Che marca è tu? Usava. Viaggio 2 anni e mezzo di su. I LED sono rotto, ma dovrei avere qualcosa. Fammi l'offerta tuo sistema. Sì, tanto non ho urgenza, su Manzano l'ho comprato nuovo, preciso, nuovo. Fammi sapere, se lo vuoi sistemare, lo sistemiamo. Io qualcosa a casa ce l'ho. Da altri televisori. Televisori con schermi rotti, oppure televisori che mai si è bruciata la scheda d'alimentazione. Ma i LED sono buoni perché li ho testati. Mi ho autocostruito un coso per misurarli, dai. Così è, andiamo. Ehi, vabbè, metterlo a posto lo devo mettere a posto, a chi non si rurà un pochino. Che buono. Che è dell'ultima generazione, se dovesse, quando deve entrare il coso, quello lì. Lo aggiusto più avanti, però me la do però. Quando vuoi, io problemi non ne ho, quando vuoi decidi di aggiustarlo, se no l'unica è, se vabbè no, tutte che poi ci va a riparare quella già rotta, che tanto poi ti dà problemi. È successo a mia cugina uguale, io l'avevo riparato, dopo un mese si è di nuovo spento, io ho cambiato le strisce e adesso se ne sta sempre andando. Conviene far così? Conviene far così? Quando è il momento già te lo dico e te lo porto. Non c'è problema, tu. Magari qualche solo una striscia da cambiare. Sai cosa, si brucia un led se vuoi tutto, poi gli altri vanno a morire. Così è, andiamo e andiamo. E vabbè, dai così, dai. Che prendetela Gianni, tutta quanta. Eia, adesso già, dipende, ci sono anche televisori, quelli che costano un pacco di soldi. Dipende da lei, dipende da diciamo dall'usura, da quanto lo usi. La gente deve tenere tutta l'aria accesa e lei rimangono sempre accesi, capito? Ma secondo me conviene abbassarla un po' la luminosità, perché se non tieni la luminosità alta al massimo, secondo me con il tempo poi si rovinano. Ma se lo tieni più basso e vedrai che il problema non te lo crea. E io penso proprio di sì. Aspetta, ma giù che sei LG e quelli che c'erano prima, se verrà giù un sacco d'anni verrà giù. Io c'ho a casa un Panasonic a plasma e un Panasonic 42, vabbè c'è il Samsung 40, sempre al plasma, c'è un buon posto. Uno 46 pollici mi pare, in coso, in LG, come ti si chiama, dice che stava, ho preso Lucca. No, l'ho capito. E ce n'ho uno, un 46 pollici, di quello che ha detto adesso, come si chiama, un LG a coso, al plasma. Al plasma, e ce l'ho in sala. E poi ce n'ho due, un Samsung e un altro LG, di quelli che c'erano prima. Sì, ma sono già, anche quelli già vanno a morire lo stesso. Quella è a lampada, capito? Quello è un casino, cambiare quello è un casino, sono molto delicate. I LED me ne ho mai già riesci a cambiare, ma quelli, No, quelli hanno si brucia, che non funziona più sul rampo, cosa ne fai? Sono ben pesanti. Ma quali sono? Quelli antivocatori? Al plasma già, prima sono a LED, no, sono più leggeri. Al plasma c'hanno il vetro davanti. No, io ce l'ho a LED. Ce l'ho a LED e il mio è anche 3D. Ma il mio è 3D. Ma quelli al plasma sono i più buoni, sono. Pure si consuma un po' gareto, però sono i più buoni. Infatti consumano un po' di più, Tore. Però sono buoni. Ma sono i più buoni, sono. Catta. Avevo venuto un LED con un al plasma, da voi si vede benissimo, si vede. Allora, sai cos'è il problema del casino? Devi smontare l'udutto, devi levare tutta la parte frontale, levarne i cristalli liquidi, levarne delle plastiche sopra, no? Dietro. E poi una volta ne levi quello, devi levarne è un foglio di plastica c'ha sotto, no? Anche quello lì, e lì ci sono i LED sotto, e poi devi staccare i LED per provarli, per vedere chi sono quelli buoni e cambiare quelli che sono rotti. Nel plasma? No, al LED, te sto parlando di quello tuo rotto, capito? No, io ti sto parlando di quello al plasma. Quello al plasma è viaggio un sacco d'anni. Beh. E non si è mai fatto nulla. Ho capito. Ha giù capito. Vabbè, già. Beh, quella maniera sono tutti a LED invece. Quello che c'è soggiorno è a LED, quello che c'è in cucina è a LED, quello che c'è in camera da letto è a LED. Qua sono piccoli però. Per esempio questo qua 32 in soggiorno. invece in cucina 20, 22 e cameraletto 24 pollici, ma ci basta, Fulvia, non lo vuole grande. Allora, io ne ho uno in cucina, 32, poi ce n'ho uno qua in camera di mia figlia, 32, in soggiorno 37, in sala 46, e poi ce n'ho quello di cameretta che è 24. E già da bene. Ma tutti questi televisori siete in due in casa? Mia moglie già baita che sui giorno, adesso mi baita che sui di sala. Ah, non siete in pari? No, catta. Si vede che c'è la camera, sì. No, io non ho visto la camera. No, io ho 30 minuti, bongo. Pongo 30 minuti, si su, dai. E adesso ho dormito. Ne muove andemmo. Sì. Ammetto, quando decidi fammi sapere, io già dovrei averle comunque, ne già ne ho, perché televisori che mi portano magari oppure che mi procurano recupero i LED, capito? Dovrei avere qualcosa, LED nuove, no? Sono bruciati, come ti ho detto, perché se vai a comprarli costano, devi basta andare su internet e lo vedi, costano un bel, meccanizzai. Vabbè, io glielo adatto, no? Magari che oggi adesso Tore c'ha lo spinotto, faccio un esempio, no? Perché sono a secondo, o due strisce o tre strisce, capito? Una sopra, una al centro e una giù, a spinotto. Magari quella che gli adatto io gli devo saldare i fili, ma ne faccio un lavoro fatto bene, non mica si vede nulla, un lavoro perfetto. E ogni cosa di posto, beh, se no non importa, per vedere le cagate. Infatti non si vede niente, capito? Non si vede niente. Già, ne ho fatto, insomma, ne ho riparato. Ma ne ho riparato anche molti connettori di antenna che si, a furia di spostare dal televisore, sono staccati. Da poco ne ho fatto uno, 45 pollici. Cosa, Gianni? Non è facile, devi smontare la scheda. E poi, una volta smonti la scheda, devi... come si dice, devi staccare il pezzo che è rimasto dentro, che sarebbe il più, perché se quel più lì va a toccare la carcassa puoi fare danno, capito? E niente, cambia lo spinotto dell'antenna, fagli prima la saldatura tutta attorno, bene bene, e poi saldare il positivo. Aspetta un attimo già, che sta dando la mano a Marina a fare, io troppo vado via da qua. Aspetta un attimo. Oh, stamattina sono andato, mi sono fatto un giro. E prima stavo guardando la città mercato e non ci sono più, perché li avevo visti a poco prezzo. Sono salito da Media World e li hanno finiti. Allora sono sceso da Conforama e me lo sono preso da Conforama. E la stessa marca è tutto, 32 pollici, 109 euro. 99 costavano, però era sino a domenica, ma dice che li avevano già finiti. Da voi a San Marco. Io la Media World, se o no, se l'ho comprato, l'ho comprato una decina d'anni fa. L'ho comprato. ed è sempre funzionenti. Io no, quel monitor ce l'ho 10 anni, più di 10 anni ce l'ho. Sì, davvero. Già va bene. Mamma, avevi una vita che c'è il televisore, che c'è bianco e nero, che c'è una cosa che faceva gli scatti. Per cambiarlo gli avevo staccati i fili da dietro. No, ma non poteva più il televisore, e adesso lo compriamo nuovo, allora dai, lo compriamo a colori direttamente, perché non li vogliamo i giambà. No, io c'ho il Samsung, il Samsung è l'LG, quello da 37, questo che c'ho qua davanti, se no questi ce li avrò un 12 anni. Io ce li ho tutti e due LG, ce li ho, perché mi ha detto il venditore che la LG fa i pezzi per tutti i televisori, era a casa madre. Se no, viaggio, se no un 12 anni ce li ho, tutti e due. E cosa mia, al Samsung gli avevo cambiato la scheda per i canali. L'avevo cambiato perché si cambiava i canali da solo, si cambiava. Ah, ma hanno cambiato la scheda. No, no, io vado, già vanno bene. Io già ho quel fondo, cioè, quello della sala è nuovo. Quello della sala l'ho preso 3 anni fa. Però quello di cucina è quello che ho preso con i tubi della S. Che andava. No, io dico già che questi due che ho, poi c'ho l'altro al plasma in sala. Stanno funzionando bene. Quando si andando in giù, dico arrivederci. E se ne pongo un altro. Infatti dico arrivederci e grazie. E Marino oggi non è entrato, né Marino, né Battiglio, nessuno. Entreranno a una certa ora, boh. Attenzione, signor Battiglio! E non riesce a metà che rai. Sì, boh, non lo so, vuol dire che si offende cosa, si offende tutti e due. Che difendere un bambinaio? Non li puoi, va bene, già lo decidi tu. E c'era Gianmaria nella 27, aspetta che a vedere che lo chiamo. Era qua poco fa Gianmaria. Non rispondi, vuol dire che va gente. Ma tu la sai, se è vero questa storia, dice che c'è tuo diabetico, l'ho trasferita a San Camillo. Ah boh, non lo so. So solo che io sono nel Palazzo Rosa. Mi sono trasferito lì io. Dottor Fancillo, maledato. Mamma ciao Fancillo. Mamma mia. Per i paesi, Ed è bravo? Abbastanza. Solo che a mamma mi ha detto tutte che lì signora viene qua. Io vedo le glicemie alte, non fa quello che gli dico, cosa viene a fare? E fa ragioni. Vabbè. No, io già ce l'ho regolare adesso che lo dico. Io ce l'avevo a 125 stasera. Vabbè, già. Tanta mamma mi è salita anche a 300 e più, non ho mangiato niente. Ma cazzo, incredibile in giro, mi pigli bruno in giro, mi pigli. Non va bene così. Non è possibile se non mangi nulla che ti salga così. Se sale così è perché hai mangiato dolci. Oppure molta frutta, molte arance, molte banane, roba così. Io mille, a dicembre quando ho passato la visita e ho fatto le analisi e cosa ce l'avevo, la glicemia ce l'avevo. A 123 ce l'avevo. E già va bene. Ma anche io l'ho avuta alta, l'ho avuta anche io, di mattina specialmente mi si alzava un bel. Però è perché mangiavo la sera, mi busavo in banca e mangiavo. Adesso bisogna che mi regoli perché sennò non mi operano se ce la vicini alta, capito? Infatti, non ti operano no. Dicono di aver fatto abbassare la glicemia. E deve andare a dieta, deve andare. E infatti sto facendo la cosa giusta come me l'hanno data. Ho detto di continuare così e di fare così. E cammina un bel, mi ha detto. A me mi ha detto, se si vuole togliere le insuline, le pastiglie, tutto quanto, basta che segua la dieta. Ma in questa dieta è impossibile, certo? È impossibile, perché io mangio di meno, e praticamente se quella lì praticamente dovresti mangiare di più e già mi sale mangiando di meno, figurati che tu mangio di più. No, a me la dieta che mi hanno dato 80 grammi di pasta o due fettine in bianco e poi pezzo di pane che a voce non ne mangio nulla, insalata, ma ne busso. E poi mi hanno fatto la mattina il tè, con 4 fette biscottate. Verso le 11 un pezzetto di pane oppure dei crecchi. A pranzo 80 grammi di pasta con una fettina o due, senza mangiare le frutta. La frutta la posso mangiare di pomeriggio e poi la notte leggero. Hai compreso? Se vai a quel ritmo lì, mi sono comparato da un bel chilo. Tu, io sono sceso di 50 kg, quindi quasi. Oh yeah, però poi mi è venuta la crisi d'astinenza, io sono sceso 50 kg, quando sono ritornato mi hanno chiamato tutti gli infermieri, tutti quanti i dottori, il dottore ha detto, non riconoscete questo signore? E loro no, e gli ho fatto vedere la foto, gli faccio vedere la cartellina, non mi dica che lì, bravissimo, proprio bravo, tutti adesso complimentati. No, a me già ero un ragno. Quella dieta che mi ha dato ne si è comparato i zicchiri, ne si è comparato. Io sto benissimo. Quando vado a fare le analisi mi trovo che sono con la glicemia bassa, anzi giusta quasi, e il colesterolo giusto e tutto quanto. E mi ha detto di che andava benissimo, continui così, mi ha detto. Adesso il 4 giugno devo fare la visita agli occhi, oculistica. Io l'ho già fatta, è andata bene, ho fatto quella all'elettrocardiogramma e tutto quanto è andato bene, ma io ogni tanto già pecco e la verità non è che sia proprio stabile, diciamo che a periodi mangio, a periodi non mangio, non mi rapporto anche se c'è la dieta, come fa? Io quando... Non mangio molto, però qualcosa la mangio, ma che dozzi mangio burro. No, non sempre sto a coso, ecco cos'è, mi regolo. Poi c'è un camminetto, un becco, Rugani, anzi, mi faccio 2-3 chilometri, Rugani. Una volta raghetta io la pizza me la bisogna sabato ma si sa perché prova a misurare la glicemia per essere carboidrati, lo so, sì, già lo so, quando mangio anche la minestra è così lo stesso, e confermo tutto carboidrati, e infatti mamma la mangia spesso e volentieri la pizza, sì, è quello. Io per dire l'altro giorno c'è la gente a casa, abbiamo preso la penne e abbiamo mangiato un po' di cioccolato. Però il giorno dopo ce l'avevo anche solo fatta, non è che era molto alto, perché non fanno neanche più nulla, ho fatto tutto per la giornata, perché c'è già, hanno fatto a tempo. Oh, lo stesso, sono così. Io... La pizza non è quella grande, è quella piccola. Un prigionale, non ne prendo grandi io. Ah, ma non mi ha detto una volta anche da me, ma vi ha detto. È una volta anche da se come niente. E guarda, la pizza preferisco quella al taglio, cioè grazie a Verena, la pucci, piuttosto che mangiarmi quella grande. E preferisco, mi piace così. Vabbè. Va bene così, pazienza. Lo sai cos'è? Che uno non è che... Allora, a me me l'ha detto il dottore. Tutta la settimana, allora una volta alla settimana puoi mangiare quello che vuoi, però dopo il resto della settimana Ramadan. Ah, sai io cosa faccio quando vado a fare le analisi? Mangio i funghi antunna, la notte, e domani mattina ho la glicemia bassa. Non so, te l'ho detto anch'io, quando mangio i funghi. I funghi non te ne fanno salire perché sono verdure, capito? Le verdure ne puoi mangiare quanto ne vuoi, ti imbuffi però, e infatti il trucco è mangiare molta verdura, mangiare primo, e poi mangiare una pettina, un pesce o uno sorpiccino, quello che vuoi. Infatti è così. Infatti adesso a giugno, sperando che li trovi i funghi, noi vogliamo mangiarli la notte, così ce l'ho bassa e non mi butti con il medico. Ma così butti i medici, ma butti pure a te, perché per te, se loro te lo dicono, allora non è una possibilità, se tu dici ahia, te lo bascia, e quello è il problema. Noi facciamo rifregare i medici, però... No, io me la controllo ogni tanto e ce l'ho normale, a volte ce l'ho bassa, ce l'ho più bassa di 100, ce l'ho. E anche a me, verso le 11 mi capita, mi sento un po' di primulita, quindi mi va vicino e ce l'ho bassa. Verso le 11 anche a me, mezzogiorno, qualche volta, allora mi mangio un pezzo di pane e mi mangio. Quello magari perché ti hai fatto troppa insulina, hai mangiato pochi carboidrati, quindi te la fa scendere troppo. Infatti, mangio un pezzettino di pane e mi ritorna normale, mi ritorna. Poi quando mangio a l'una e mezzo, quando mangio, mi sento un po' garido. Quello di cane è sempre che la caramella, ti mangi la caramellina. Sì, vabbè, pazienza. Luca! Il Lu Rughido, sì. Andiamo. Aspetta che ci ha messo il signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Mi sa che ha pesso. Mi sa che non entra stasera. Comunque, Tore, per quanto riguarda quel televisore, nel caso non lo vuoi riparare, non lo buttare. Nel caso che magari dici, ma l'ho rubato di qua. Se lo vuoi riparare, già lo so, non c'è problema, lo ripariamo. Però nel caso che magari non lo vuoi fare, lo vuoi buttare o non lo buttare? No, buttarlo non lo butto, che lo faccio riparare. Catta, lo riparo quello lì. È proprio che come cambiano cose, quello ce l'ha. Hai compreso? Non c'è bisogno di attaccargli il decoder quello. Col nuovo decoder. Avanti già. Ciao già. Stammi bene, buona cena e tutto, ora ci sentiamo domani se tutto andrà bene. Si prendete la Luca. Andando stai già. Gianni. Andando stai già. Oh, non ho capito. Sento, adesso mi devo consigliare l'antenna quella la tua. Ma sono domani. Non sai che lo faccio con il 58 però. Te la fa Luca, te la fa. Eia. Vabbè, pezzi edo, nonna. Ah, vabbè, già, devo comprare canne da pesca. O il PVC, mi sa, adesso vediamo, dai. Mi sa che devi comprare canne da pesca e un tubo in PVC. Devi comprare. Quello lo sa Luca. E adesso vediamo, Tanto da me la volante nella linea, una cosa leggera, se ne fa, già non farti danno. Almeno così trasmetti più bene. Anche da lontano pure senti. E infatti diceva anche bene. Tu come hai fatto il coso? Il balum con la K155? Il tubo? Diciamo l'avvolgimento l'hai fatto con il 155 o con il 58? No, 155, il cavo nuovo, quello grigio. Non ho capito. Quello lì, adesso me lo faccio a pulsare, lo compro 5 metri, ma tu essere 5 metri Luca. Meglio con il cavo grigio, ma manco non si distrugge né nulla, almeno così puoi fare, anche da lunghe tratte puoi sentire da lontano. Io ascolto bene con Alghero, ascolto più bene Alghero che Porto Torrese. Ho capito, vabbè Alghero io da casa, anche se sono in mezzo ai palazzi, già lo ricevo bene. Infatti è così, vabbè, andava così. Prova che appuni, un'antenna pesante non fa. No, catta, mettere un'antenna pesante, no, catta, come te vai? Ci ho messo un tubo da 3 metri e mezzo attaccato al tubo grosso, compreso. Sì, ma l'antenna è agganciata di fianco. È agganciata di fianco, agganciata con quei cosi a croce. Cosi a croce? Dove li hai comprati? A Bricome? Ehi, a Bricome li ho comprati quelli lì. Sono staffe con il tubo a croce. Un tubo a croce, Ehi, ci va il tubo verticale e il tubo orizzontale. Si chiama palo palo. Infatti. Ho capito. Vabbè. Adesso vediamo, dai. Organizzo con Luca e possiamo fare tutto. Una volta che è pronta, io vado a fare la verifica se mi fa salire su. So cosa che la botta fa. Dove se c'è la bottola. Dov'è che la devi mettere? Sul tetto? Allora. Allora la metti con i cosi. Con le staffe a muro. Le metti. E la appoggi al muro direttamente. Così non hai pericolo. Anche così posso fare. Posso bucare il muro, mettere con le staffe lunghe, no? Sì, le staffe lunghe metti. Bisogna vedere come è fatto il muro e gli metti quelli da 20 centimetri. Se no le faccio incementare, faccio il muro, il coso, le faccio incementare. No, ti conviene, vai due buchi, due staffi e sei a posto. Certo. E che appuntavi voi in chibi? Ti pone troppo tempo che andare a asciuttare. Faccio metto rapido, asciuttare subito. Vabbè, ma ti devo pintare, bucare, ecco, se vai prima che a fare i due buchi, fai. Ma ho detto che punta ci vuole. Staffa ci vuole? E quelle a coso? Quelli per antenna ci devi mettere. Ma già si trovano, se no vai dal coso, da quello di Predagneda, vai e ti guardi le staffe, ti guardi. Ho detto che punta ci vuole, tu hai fatto i buchi con la punta del trappano. No, io veramente vi raggio un dubbio 30 ragabisturi a Zagibuscio. E poi l'ho agganciato lì, hai compreso? C'avevo il tubo telescopico prima, il tubo innocenti con il tubo infilato dentro. Ho preso poi, si è incollato, una ruggine e tutto, ho dovuto tagliare. Ho capito. Tu hai fatto il buco nella tegola praticamente. Sì, la tegola e il tetto ho fatto. ma posso dire quasi 40 anni fa, se non di più. Vabbè, ma no, sei tranquillo. Nell'80 l'ho fatto, pensa un poco, nell'80. Ma tu tiranti li hai messo? Ci sono i tiranti anche, però ce ne manca un altro che non ce n'è bisogno nemmeno da me. Non si muove nulla, si muove l'antenna giù e buh. Ma cosa dici, meglio metterli? Secondo dove sei, si è un po' riparata, non ce n'è bisogno. È leggerissima mi l'antenna, quindi flette solo l'antenna e buh. Ho capito, tutto. E adesso vediamo un po' tutto la maladam. Se riesco a trovare la K155 è meglio, dai. Infatti. E poi ti puoi mettere anche l'antenna per il coso, per il PMR. No, vado bene così, mi interessa. Sì, vabbè, ma almeno con l'antenna su per il PMR ascolti a tutti. Ma anche così già va bene, cosa mi interessa. Se piace a te così, Adesso vediamo, non so ma cosa se me la fanno piazzare, vabbè. Sul tetto posso salire perché è il tetto di tutti. Sì, sali una volta e boh, non batti più. Devi isolare anche il PL, devi isolare. Sì, col vulcanizzante, non lo so, faccio tutto. Sì, te lo fai mettere insieme a Luca, lo mettete. O se vuoi una mano un burro da me. Ah, bisogna vedere, come ce l'hai il tetto? Ho attaccato a un coso, ce l'hai, come quello di Graziano. Ma è identico a quello di Graziano, eh. E allora, cazzo, è un bombo, e a Vuglia, con un tubo di 3 metri, a Vuglia. Sì, se a 2 metri andava l'uomo a te, sì, già, come si dice, già spara lì. Un tubo d'acqua devi usare, di quelli in coso, come si chiamano, di quelli zingati. Ma quelli che vende Bricoman? No, io sono andato da Marcido a pigliare Miro, che tu zingato, tu budeva zingato. Ah, e poi la modificato così. No, ce l'ho messo su e buh, io se non piglia né ruggine e né nulla. Infatti se vedi quello della manto, fa mio, tutto rugginoso. Sa se mi dici l'antenna, va. Quello che è innesta nell'antenna, è tutto rugginoso. No, quello che ho io no. E Luca, mi so ciamendi, ci sentiamo domani se tutto andava bene, ok? Ciao Luca. Sì, adesso anch'io vado via, ciao.